Ciao a tutti cari amici di Radio Pazza, io sono Bach. E io sono l'insolito Grex. Come l'insolito, non sei sempre il solito. Mi sento così. Sei l'insolito crodino tutto il mattino. Sì, che fa tanto bene alla digestione. Dai. Bravo, andiamo avanti. Allora, questa è Radio Pazza, abbiamo un ospite insolito anche lui, ma non tanto. Il solito magari per tutti gli ascoltatori di Radio DJ, lui è Roberto Ferrari. Ciao Roberto. Io sono Rob, allora. Rob, sì, non più di tre lettere. Perfetto. E evitiamo soprattutto facili battute sul cognome, perché sarebbe abbastanza squallido da parte nostra. Infatti abbiamo evitato. Ciao Roberto, certo. noi siamo... Il cognome vero o il cognome finto? È un cognome vero questo o quello finto? No, Ferrari è quello finto. Ah, com'è? Perché il mio cognome vero è Porchera, capito? Quindi non è proprio il massimo, lì le battute a voglia. hai ragione, è meglio Ferrari. Lo fanno. Sì. Abbiamo avuto un'infanzia simile, insomma. Traumatizzata. Sì. Senti, noi siamo veramente onorati di averti qui a Radio Pazza, ma soprattutto tu hai mai ascoltato una puntata di Radio Pazza? Hai più o meno presente come di la verità? Io dico la verità, non l'ho mai ascoltata, però non volevo ascoltarla, volevo partecipare e volevo essere proprio parte integrante della puntata, per quello che non l'ho voluto ascoltare. Da ora in poi ascolterò le altre puntate. No, questa è un'ottima premessa, noi controlleremo ciò e certo. Controllando magari eventuali commenti sui nostri. Senti, noi volevamo farti una domanda in questo senso, cioè perché, ecco, prendere contatti con piccole radio o piccoli podcast per promuovere questa tua iniziativa del quale parleremo a breve? Allora, tu hai detto proprio una cosa giusta, podcast, perché si fa su internet, nel senso è perché è diretto, perché secondo me internet è il futuro, no? Tu e voi ci insegnate che comunque con pochi soldi, anzi forse meno di zero. Meno di zero, certo. Uno riesce a esprimere le proprie capacità, no? Giusto? E quindi mettersi anche in competizione con chi invece ha tanti soldi da investire e fa dei network enormi, esagerati, no? Quindi secondo me la cosa bella è che internet tra un po' livellerà tutto, cioè, nel senso, già un po' lo sta facendo. Beh, no? Ecco, appunto, internet è il presente, non il futuro, in questo senso. Internet è già il presente, esatto. Sì, esatto. Infatti è per quello che anch'io mi sono un po' deciso a cercare di realizzare quello che è il mio sogno, di andare nello spazio utilizzando proprio questo mezzo invece che usare i canali classici, no? Perché in fin dei conti è un mio sogno, è il sogno proprio di andare nello spazio, che potrebbe avere chiunque, no? Appunto, vorrei spiegarlo meglio a chi ci sta ascoltando in questo momento. Ecco. Roberto Ferrari sta promuovendo la sua immagine, allo stesso tempo il suo sogno, cioè quello di trasmettere una trasmissione radiofonica dallo spazio. Come? Ecco, e devo dire che ho provato con svariati mezzi a raccogliere soldi, perché servono un po' di soldi, un po' di fondi, no? E ho purtroppo scoperto che il sogno era solo mio. Senso. No, aspetta, tanti miliardari volevano andare nello spazio e ci sono anche riusciti. È perché hai detto giusto la parola miliardari, siccome io non lo sono. Alla fine. Appunto, quindi sei l'unico delle persone normali. Esatto, ho detto qualcosa di così alto, direi, no? Sì, abbastanza. Molto alto. Anche troppo. E ho detto, aspetto un low cost di quelli tipo Vueling, che ne so, EasyJet. Esatto, però è difficile, magari ci vuole anche qualche anno. Oppure chiedo aiuto proprio in una rete mondiale come quella di internet. La speranza è che non ti perdano il bagaglio, soprattutto. No, il bagaglio me lo porto a mano, così faccio prima. E allora, insieme a un amico che è proprietario di un motore di ricerca che si chiama Godado. Scusati, potevi fare un amico proprietario di uno shuttle? No, magari, infatti potevo far prima così. Abbiamo pensato di realizzare questo sito che mi riguarda proprio in prima persona, ferrari.godado.it. Questo ti fa capire l'unione tra le due cose. Semplicissimo, basta digitare ferrari.godado.it senza www.http, si ridireziona automaticamente, giusto? Esatto, ma anche col www, ecco, comunque. Poi tanto c'è un link sul nostro post, lo troverete facilmente. Che meraviglia, ragazzi, la tecnologia. Io prometto che se vado nello spazio ti mandiamo due fototessere, due, e le metti lì vicino, le così libero. Ci pensi, le liberi dello spazio. Sì, si godono. No, io pensavo di portarvi un detrito spaziale. Sapete che la sua è piena, no? Ho un dente del giudizio estratto anni fa, non so se ti può interessare, ma non... Anche. Comunque. E quindi abbiamo deciso di utilizzare il sistema tanto in voga attualmente delle aste al ribasso per raccogliere fondi appunto per questa occasione. E abbiamo visto tutte le aste al ribasso che sono online e nessuna di queste aste metteva all'asta una casa, no? E allora abbiamo detto, perché non farlo noi? Siamo i primi al mondo a mettere all'asta una bellissima casa sul lago d'Iseo, che ha un certo valore, costa più di 140.000 euro, e volendo anche voi potreste aggiudicarvela con 1,50 euro, che ne so, adesso ho buttato prezzo via. D'entrata, diciamo, quant'è il prezzo d'entrata? Prezzo da aggiudicare, no, cioè, l'entrata non c'è, perché in realtà devi scoprire tu quale sarà l'unica e più bassa puntata che si potrà fare, capito? Sì. Quindi, insomma... Io ti faccio un'ultima domanda e poi partiamo sì. con la prima traccia canzone. Che tu hai selezionato sì. delle cinque che insomma ti ho chiesto, perché volevamo anche personalizzare questa puntata su di te. Quindi certo. la... sei un DJ. Esatto, ti chiedo, ma tu te le immagini questo viaggio nello spazio? Io me lo immagino sì, cioè me lo immagino anche perché nel frattempo in questi 7 anni, 8 anni che inseguo questo sogno ho conosciuto astronauti italiani e anche russi che mi hanno un po' raccontato com'è quando si è là. Io me lo immagino, quindi grazie ai loro racconti, no? E alle immagini che poi vedi sui vari siti internet, NASA, RASA, eccetera, eccetera. È che io vorrei proprio vederlo e vorrei poterlo raccontare anch'io. Diciamo. Fantastico. Va bene, noi ascoltiamo quindi per tua sì? scelta Michael Bublé per rimanere in tema con Come Fly With Me. Ecco, poi ti spiego anche perché ho scelto questa. Va benissimo. Come fly with me, let's fly away. If you can use some exotic booze, there's a bar in far Bombay. Come fly with me, let's fly away. Come fly with me, let's float down to Peru. In Lama Land, there's a one-man band, and he'll toot his flute for you. Come fly with me, let's take off in the blue. Once I get you up there, where the air is rarefied, we'll just glide, starry-eyed. Once I get you up there, I'll be holding you so near. You may hear the angels cheer, because we're together. Weather-wise, it's such a lovely day. Just say the words and we'll beat those birds down to Acapulco Bay. It's perfect for a flying honeymoon, they say. So come fly with me, let's fly away. Oh, come on and fly. Once I get you up there, where the air is rarefied, we'll just glide, starry-eyed. Once I get you up there, I'll be holding you so near. You may hear all the angels cheer, because we're together. Weather-wise, it's such a lovely day. You just say those words and we'll beat those birds down to Acapulco Bay. It's so perfect for a flying honeymoon, they say. Come fly with me, let's fly, let's fly. Pack up, let's fly. Allora, tu... poi uscendo da qua ti posso dire perché l'ho scelto. Sì, sì. Ok, un attimo solo, ti passo Greg se vuole dirti una cosa. Certo. No, hai rinunciato. Ci sono dei tempi comici, noi non li abbiamo mai avuti. Va bene. Va benissimo. Quindi fai conto che stiamo rientrando dal pezzo, quando vuoi. Ok, perfetto. Oh, ho scelto, devo dire ragazzi, Come Fly With Me, giusto? Di Michael Bublé, che poi era la terra di Frank Sinatra, perché una delle altre passioni mie è quella del volo. Nel senso, io sono riuscito a prendere il brevetto di pilota privato a Venegono e da lì, da quel momento in poi, da quando l'ho preso, sono riuscito anche a coronare un altro mio piccolo sognettino. Come John Travolta? Più o meno, ma magari John Travolta è vero proprio pilota, lui è proprio pilota di 747 e io piloto i Cesnini ancora, però in un certo senso non sono ancora nello spazio, ma sono quasi arrivato. Noi facciamo solo gli replenini di carta per adesso, ci accontentiamo. Sì. Sei comunque un passo avanti a noi. Ah, benissimo, perfetto, benissimo, benissimo. E quindi ho voluto così iniziare questa intervista con un pezzo musicale che ricordasse appunto anche questa mia passione del volo. Fatto, detto. E Fabio Volo non è invidioso di tutto questo? No, almeno penso e spero di no, anche perché lui c'ha altre doti, quindi lui le fa volare. Senti, Roberto, io volevo un attimo, più che farti una domanda, porre sì. Una leggera riflessione, no, per te e per quelli che ci stanno ascoltando. Sì. Come ti dicevamo, noi qua siamo tutti, diciamo così, parti di mondi diversi, mi pare anche che tu vieni da un pianeta completamente diverso e sì, molto lontano. Assolutamente, sono extraterrestre. Esatto, io ammetto la mia ignoranza, nel senso che io non ho mai ascoltato la DJ, sono cresciuto qui a Roma, ascoltando certo. Rock per esempio, quindi la mia adolescenza e la mia formazione musicale l'ho passata con loro, così un po' come tu non conoscevi Radio Pazze, che guarda che un giorno certo. sarà, voglio dire, una delle emittenti più importanti del mondo, ma il punto è un altro. Io volevo sì. far notare agli ascoltatori proprio il fatto di come Radio Pazza, nonostante sia ancora un fenomeno completamente sconosciuto, riesca tutto sommato a incontrare anche dei personaggi come te che alla fine sono in un certo senso realizzati, sono già noti certo. per il loro lavoro e insomma per quello che fanno. Allora, questo connubio, no, tra lo sconosciuto e il conosciuto, nel senso che alla fine siamo tutti, diciamo così, abbiamo tutte le stesse potenzialità, le stesse certo. capacità, almeno in partenza, per cui ecco, non bisogna mitizzare nessuno, perché sì, siamo tutti uguali. Sembra di essere ritornato completamente nel 1976 col famoso Far West esatto. delle comunicazioni, delle radio, delle sì, radio siamo certo, tutti allo certo. stesso punto di partenza. Sì, non c'era internet all'epoca, quindi non c'era questa facilità, insomma, di... Però c'era la libertà delle frequenze, cioè dovevi comprarti il trasmettitore FM, dovevi montarti l'antenna, eccetera, eccetera. Adesso internet veramente dà l'opportunità a tutti di crearsi, in un certo senso, la propria radio privata, no? E anche con pochissimo, ripeto, voi riuscite a fare il tutto con veramente poco. E qui esce la bravura delle persone che realizzano queste situazioni, ma soprattutto sai, soprattutto noi abbiamo avuto l'opportunità di farci la gavetta da soli, non abbiamo dovuto chiedere il permesso a nessuno di darci certo. caso, 10 minuti, mezz'ora lavorando gratis, occupando il nostro tempo. Questo, certo. questo significa anche che insomma puoi dire parolacce sì. e esprimerti come preferisci, perché qua c'è una certa libertà di linguaggio. Limite. Sì. Anzi, guarda, questa forse è una delle nostre pecche. Rutto, perché... non mi viene, però posso dire qualche parolaccia. Nel senso che non abbiamo nessun tipo di limite, al di fuori dei limiti morali, ecco. Anche legali, certo, guarda, che se... guarda che siamo rintracciabilissimi volendo. Io vi ricordo che siete a Roma. Esatto. Io ti ricordo che sei nostro gomito. No, dico, Roma c'è il Vaticano, quindi certi limiti ci vogliono. No, direi anche doveroso. Esatto. Io sono contento che ci sia questa, come si può dire, libertà nel creare nuove situazioni. E poi sono curioso, sono nato curioso, no? E quindi mi incuriosiscono tutte queste nuove realtà che viaggiano su internet. Ed è per quello che, tornando alla domanda di prima di Can't Fly With Me, io mi sto così cercando anche di far conoscere anche a un livello molto più amatoriale, no? Nel senso, chiamiamolo amatoriale ma professionale, perché voi fate una cosa amatoriale ma nel contempo in maniera molto seria. Certo, ma scusami, non per offenderti, però invece di farci i pompini a vicenda, volevo puntare l'attenzione su una cosa importante, ecco, una domanda questa a livello professionale tua, ma a parte il fatto che tu, lavorando per un grande network, magari devi programmare musica e quindi la scelta non sempre è libera, immagino. Poi magari diciamo che non è quasi mai nostra, la scelta viene imposta, infatti, se non in alcuni programmi, certo. Esatto, però ecco, io volevo invece, non so, volevo puntare l'attenzione sul fatto che, primo, Radio Pazza non chiede soldi, ecco, Radio Pazza punta a non fare soldi, questo è importante, certo. Perché se noi fossimo per esempio professionisti in questo senso, magari ci adageremmo sugli allori. E certo. Secondo, la scelta della musica per noi è completamente libera. Certo, questo ci rende tra virgolette illegali, però devo dire, siamo, ogni puntata è animata da un filo conduttore. E cioè, guarda, io, infatti, io mi ricordo, cioè, il vostro modo di fare questa radio, sì. No? Di fare radio. Mi ricorda molto la mia prima radio, Radio Sfera Regione, dove lavorai, ecco, racconta, a Bologna. Racconta, sì. Ecco, era molto bello perché all'epoca ognuno si faceva la propria scaletta musicale, cioè nel senso, io ovviamente mi mettevo d'accordo col DJ che veniva prima di me e cercavo di non accavalarmi con la musica che aveva già messo. Che anno era? Era il 1987. Vinili, 86, quindi. 87, sì. Però tornando ancora più indietro nel tempo, ero stato anch'io un po' un precursore della radio perché me la sono costruita in casa. Con il classico trasmettitore da 1 watt, all'epoca che dicevi tu prima del 76, c'era l'opportunità con un'antenna messa all'ottavo piano, io abitavo all'ultimo piano, di così raggiungere qualche appartamento di limitrofo, sì, e trasmettere nel radio condominio. Esatto, radio condominio, esatto. E quindi io invidio un po' quell'epoca, perché in quell'epoca ognuno di noi si faceva la scaletta musicale, si programmava la musica che voleva, e quindi usciva un po' forse la personalità del DJ stesso. In questo caso, invece, nel nostro caso, la scaletta musicale è già preparata, quindi non esce più non c'è proprio la nostra personalità all'interno del programma, almeno musicale. Poi in quello che facciamo sì, però musicalmente parlando per diverso. Infatti qua, quando mi avete detto scegli la musica che vuoi tu, io mi sono scatenato, ho detto ok, posso fare come voglio io, ed è la cosa. Quindi praticamente grazie a Radio Pazza tu hai fatto un salto nel passato e ti abbiamo fatto tornare bambino, no? Assolutamente. Poche parole, sei adesso come un bambino indifeso. Sì, sono giovanissimo. E quindi noi facciamo anche un salto nel passato musicalmente parlando. Aspetta un attimo. Prima di presentare il pezzo, no, volevo dirgli, ma tu in quell'esperienza, come si chiama la radio dove hai lavorato a Bologna? Quella più seria prima della mia, fatta in casa, era Radio Sfera Regione. Esiste? No, quella di cui parlavi, dell'esperienza di mettere la musica che volevi, come... Sì, quella lì, appunto. Radio Sfera Regione, ecco, mentre facevo il militare. A Radio Sfera Regione, mentre tu eri militare, sicuramente eri innamorato di una donna, come tutti i militari, sì, no? Certo. Le hai mai dedicato, come fa Donna Summer, un messaggio d'amore attraverso una canzone? No. Ecco. Ma certo. Quindi oggi possiamo. Che collegamento, non so, hai, ecco, fatto? Hai visto? Sto imparando la mia gavetta questa. Quindi tu a chi dedichi Donna Summer che canta on the radio? Ma io dedico a tutti gli amanti e i sognatori che ascoltano Radio Pazza. Va bene, grazie. Questa è Donna Summer, il pezzo intitolato On the Radio. Ma potremmo dedicarlo anche all'amore per la radio. And now, ladies and gentlemen, another little letter from the Lonely Hearts Club. Tune in. Maybe you'll find the one you lost too on our little old radio show. Here's the first letter. Someone found the letter you wrote me on the radio, and they told the world just how you felt. It must have fallen out of a hole in your brown overcoat. They never said your name, but I knew just who they meant. Told the soldiers how I've been feeling over you, but they said it really like quando volete. Ok, va bene. Sapete che dimmi. Sapete che ripensandoci questa canzone però potremmo dedicarla a tutti quelli che amano la radio, perché secondo me Donna Summer l'ha fatta per quello, capito? Secondo me è proprio... Sì, erano anni caldi della radio quelli, che anno era? Cavolo. Il 79? O erano sì, già gli anni 80? 70, fine anni 70. Fine sì, anni sì, 70, sì, sì. Poi mi sono anche rivisto il testo, approfittandone, è veramente bellissimo, eccezionale, proprio... Sì, era la disco music che non c'è più, insomma. Sì. Adesso c'è un altro tipo di genere musicale che va in discoteca. Che... Difatti, io sono molto commerciale. Difatti seguirà dopo Lady Gaga, però ti ho fatto una sorpresa. Sì? Ti ho fatto una sorpresa, sì. Poi vedrai, te la faccio, se no non rimani sorpreso. Anche, ah, giusto, anche i toni vocali, insomma, ne risentirei. No, è vero. Ci mancherebbe. Sentite, okay. Di cosa parliamo adesso? Ecco, io adesso ti faccio un'altra domanda attinente al tuo progetto. Vai, e ti chiederò che cosa è un'asta a ribasso, insomma, principalmente. Benissimo. Così descrivi il meccanismo. Poi dopo questo dopo aver descritto questo meccanismo, lanciamo il prossimo pezzo. Dopo ne ho un'altra di domanda che sul fatto della lotteria, il gioco d'azzardo, così possiamo entrare anche in temi un po' più sociali, eccetera. Certo, ci mancherebbe. Ok, sto per rientrare. Ok. Chiudi la porta, Greg, che siamo appena entrati, che esce tutta la musica. Ok, cari amici di Radio Pazza, siamo ancora qui in collegamento con Roberto Ferrari di Radio DJ, finalmente lui ospite. Eccomi. Da Radio Pazza, insomma, dopo tante volte, dopo averlo veramente ascoltato tutti i giorni in maniera distaccata, oggi possiamo finalmente scambiarci quattro chiacchiere, almeno noi. Che meraviglia, interattivi, l'interattività è interattivi, importante. Interattivi gratis soprattutto, questo è il motto. Esatto. del futuro. Assolutamente. Gratis forever, sì, sì. Vero Greg? E per tutta la vita. Sì, come poi gratis non è inglese, lo rammento a chi sta ascoltando, gratis non è inglese. Aspetta, è anche ecocompatibili già che ci siamo. Esatto. Che ci sta sempre bene, no? Equo e solidale. Sì, poi tutte queste cose, insomma, da cartone del latte mi sono sempre piaciute. Esatto. Appunto. Quindi ti stavo per chiedere, sì? Bene, primo a chi volevi dedicare questo pezzo che abbiamo appena ascoltato, cioè Donna Summer. Tu volevi fare una precisazione, mi dicevi in fondo. Sì, no, volevo fare una precisazione perché secondo me questa canzone si può dedicare tranquillamente a tutti gli amanti della radio, no? Anche perché all'epoca quando nacque questa canzone Donna Summer la dedicò, insomma, un po' forse anche a quello. Era la fine anni 70. E quindi sì, dai, chiamano tutti quelli che chiamano la radio, ma chiamano anche i nuovi mezzi per fare radio, perché anche in internet puoi fare radio, no? Nel senso, non è che forse trasmettere con un'antenna, puoi anche navigare sulla rete. Quindi, sì, infatti insomma, non è tecnicamente radio, però allo stesso tempo è rimasto un po', abbiamo esteso questo termine radiofonia un po' a tutto il genere di trasmissione di suoni attraverso distanze, ecco, telesuonare. Esatto, forse. Esatto, bravo. Perché telefonare sembra riduttivo. Comunque, senti, ma io so che tu vuoi chiedermi qualcosa sul mio sito, può essere? Sì, certo, io volevo fare una domanda ben precisa: che cos'è un'asta a ribasso e soprattutto come possiamo sapere a che punto siamo della nostra offerta? Allora, ti spiego semplicemente, è una cosa che ho notato, che nonostante sia esploso questo sistema di asta a ribasso da poco tempo, 6 mesi, in internet ovviamente, c'è ancora molta gente che non lo sa, ma per carità, cioè, ci sta anche. Visto che è appena scoppiato, dunque l'asta ribasso è l'esatto opposto dell'asta rialzo, cioè vince chi fa l'unica offerta più bassa. Quindi un esempio pratico? Allora, nelle aste classiche si fa l'offerta a busta chiusa, poi si aprono tutte le buste, giusto? E si vede chi l'ha fatta più alta. In questo caso si fa ovviamente anche qua tutto a busta chiusa, nel senso si fa la propria offerta, però io ti dico immediatamente, subito, quando tu giochi, quando tu cerchi di rilanciare, no? Se la tua offerta è più alta, più bassa o unica e più quindi bassa. Appena ci provo già lo so che non appena ci provi già lo sai, esatto. Per far questo ovviamente ti faccio pagare un qualcosina, cioè, nel senso, non è che sennò che ritorno ho. Certo. Io e quindi hai un costo per andare a vedere, per visionare qual è praticamente se la tua offerta è giusta oppure no. Se non è giusta puoi tornare a giocare. Solitamente i costi per andare a vedere questo tipo di situazioni sono bassissimi, si va dai 50 centesimi a un euro, quindi certo. Non è che si parla di cifre esagerate, però ecco, tu capisci che uno magari fa 10 verifiche, 10 offerte e con 10-12 euro si porta a casa qualcosa che vale magari 500-600 euro, no? quindi insomma vale anche un po' fortuna. Adesso siamo in Italia, l'Italia è l'italiano è uno che gioca, ha sempre giocato, quindi alla fine ci sta anche questo. E non è comunque un gioco d'azzardo, perché poi alla fine tu che cosa fai? Tu acquisti questo bene, cioè nel senso, se io ti dico che la casa me la porto via con 10,55 euro, tu in realtà quei 10,55 euro me li dai, io ti faccio fattura e te la do. Capito? Ecco, da un punto di vista etico, quindi è completamente differente dal gioco d'azzardo o dalla lotteria. Assolutamente, questo assolutamente, è importante, insomma. Assolutamente, assolutamente. Poi è tutto chiaro, cioè nel senso, tu quando entri nel mio sito vedi, non ci avrei messo la faccia, sinceramente, se non fosse stata una cosa più che chiara. E ti dico, vedi come funziona, sai che comunque per fare un certo gioco devi comunque pagare, quindi alla fine sei consapevole di quello, ma ripeto, forse il rischio maggiore è il mio che metto 140.000 euro di casa, non sapendo se realmente poi mi torneranno, quindi, e soprattutto se torneranno anche per andare noi nello spazio. Noi ti facciamo i complimenti per il tuo enorme coraggio, speriamo veramente con cuore che tu riesca a portare a termine questo tuo progetto spaziale, perché lo spero anch'io. Sono convinto che ne valga veramente la pena, anche perché insomma altrimenti non staremmo qui a parlarne ora. Mi piacerebbe poter dire, come in una trasmissione radiofonica normale, per chi si fosse collegato in questo momento, ma non è proprio così, visto che insomma normalmente un podcast chi si attacca dall'inizio se lo sente tutto, e quindi però non fa niente, però ripeto, comunque il sito da visitare anche solo per informarsi o capire come funziona è ferrari.godado.it. Bravissimo, perfetto. Buona l'addizione? O me la bocci? Fatemi sognare. Hai visto? Noi stiamo qui, invidiamo enormemente la tua voce, il modo di essere radiofonico, cosa che noi stiamo imparando più. Senti, tra le altre cose, io sto parlando con uno che arriva da Mosca, e io a Mosca ci sono stato. Com'è il tuo socio? È di Mosca. Mosca è bellissima, bellissima. L'unico problema è che una sera mi hanno portato a mangiare in un ristorante dove non c'era un menù tradotto neanche in inglese, e ho dovuto andare a caso. Random, ma Random è forse il dio dell'Olimpo più interessante che c'è. Questo sì. No, io, ecco, sono stato a Mosca perché sempre per la passione dello spazio sono andato a visitare Star City, che è la città delle stelle, intestata e intitolata Yuri Gagarin, il famoso primo uomo nello spazio. Senti, com'è la vodka? E la vodka è molto buona, Cenare o pranzare, comunque, come fanno loro la vodka. Hai visto la vodka alla spira? È una delle grandi invenzioni, penso, del popolo russo. Per loro è acqua, infatti vabbè. Sì, ma quella, sai cosa hai notato? Che quella è molto meno potente di quella che abbiamo in Italia noi, cioè nel senso, la senti meno perché la fa freddo, ma sarà da consumo all'ingrosso, dai. Diciamo che adesso, per come la vedo io, l'alcol spesso e volentieri è una sorta di collante sociale, in Russia, oltre che collante sociale, è anche una sorta di carburante, di scaldamento, esatto. Quindi senza ci mandano le macchine, senza quella c'è poco da fare, e per forza non la senti, perché sennò moriresti congelato. Infatti. Per rimanere in tema gioco d'azzardo, io lancio il prossimo pezzo, che è Poker Face di Lady Gaga, però ti faccio una sorpresa, perché questa non è una versione normale tra virgolette, ma è la versione unplugged, o meglio fatta solo a pianoforte, dell'album Live at the Cherry Tree di Lady Gaga. Quindi a voi Poker Face. I wanna hold them like they do in Texas, please. Fold them, let them hit me, raise it, baby, stay with me. Love game, intuition, play the cards with spades to start. And after he's been hooked, I'll play the one that's on his heart. Oh, I'll get him hot, show him what I got. Oh, I'll get him hot, show him what I got. Can't read my poker face. He's got me like nobody. Pop, pop, pop, poker face, pop, pop, poker face. poker face, poker face. I wanna roll with him, a hard pair we will be. A little gambling is fun when you're with me. Russian roulette is not the same without a gun. And baby, when it's love, it fits now rough, it isn't fun. Uh-oh, uh-oh, uh-oh, uh-oh, uh-oh, uh-oh. I'll get him hot, show him what I got. Kiss or hug you, 'cause I'm bluffing with my muffin. I'm not lying, I'm just standing with my love glue gunning. Just like a chick in the casino, take your bank before I pay you out. I promise this, promise this. Check this hand, 'cause I am marvelous. I'm marvelous, I'm marvelous, I'm marvelous, so marvelous. He carried my, he carried my poker face. E dopo questa serenata, scampanata, dolcissima di Lady Gaga. Ma che bella versione! ma che bella versione! Ma tu ti aspettavi l'unzunzo, ma io mi dispiace, non ce l'ho fatta. Appena l'ho sentito ho detto no, no, questa non la mando. Purtroppo ho dei limiti, non ce la potevo fare. E quindi noi rientriamo qui, siamo sempre in collegamento con Roberto Ferrari di Radio DJ, però non voglio rinchiuderti in questa gabbia, cioè Radio DJ, poi tu sei Roberto Ferrari, insomma, no? Bravo, e bravo, quindi giusto, hai una tua personalità che magari o speriamo, anche una casa, hai anche una casa, una famiglia, un cane, un gatto, esatto, bravo. Esatto. E ci piacerebbe sapere qualcosa di te, per esempio come nasce la tua passione per il volo, magari qualcosa fin da bambino. Sì, non so. Sì, sì, ecco, guarda, hai detto una cosa giusta, perché la passione per il volo, per lo spazio in generale, nasce proprio da bambino, da quando avevo 5-6 anni. Essendo nato nel 65, non sembra, ma sono così giovane. Beh. Ero praticamente, sono cresciuto nell'epoca in cui c'era la famosa lotta tra gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica. Guerra per fredda. Chi doveva andare per lo spazio. Mm-hmm. Sì, no, per chi doveva andare per primo sulla Luna, nello spazio, no? C'era questa guerra per modo di dire, capito? Cioè, lotta. Secondo lotta te, alla fine, sulla Luna ci sono andati o non ci sono andati? Gli americani. Come no? Ci sono andati. Sì, ci sono andati, ci sono tornati, a voglia. Ma sai cos'è? Ci sono tanti siti, anche tanti documentari, anche tanti video su YouTube che cercano di smentire questa cosa. Sappiate che c'è la possibilità di vedere con un telescopio, un grande telescopio, proprio il punto in cui è stata ficcata la bandiera, e si vedono ancora i resti lasciati dagli americani sulla Luna. Come si chiama? L'impronta? Quindi, no, cioè si vede proprio il rover, sai, quella macchina che viaggiava. Ah sì, le tracce delle ruote. E anche la macchinetta. Perché è rimasta lì? È rimasta lì, sì, non se la sono portata. Pensa alle multe che ha trovato sopra. Infatti, divieto di sosta. Quindi, nonostante quello, molti non sanno che c'è questa opportunità con un telescopio di vedere. Quindi, diciamo che si smentiscono subito queste cose. Però ammettiamole che la teoria secondo la quale fu addirittura Kubrick a girare l'atterraggio sulla Luna è molto affascinante. Poi so che in radio non si dicono mai le cose che non si sanno, però mi ricordo che avevo visto un film. Sì, tanto Radio Paz. Mi ricordo di aver visto un film, Operazione Qualcosa, anni fa, che parlava. pessimamente. Sì, no, che parlava esattamente di questa cosa, di questo film. Del viaggio su Marte. No, non era sulla Luna? Vabbè, ma era... No, no, no. L'hai visto? Era... Aspetta, aspetta, adesso mi... io ho un buco di memoria tremendo. Adesso mi arriva, Io adesso cerco di recuperare una il titolo. Ho una groviera dietro la memoria. Ragazzi, dove si faceva finta di andare su Marte e in realtà veniva tutto girato all'interno di studi cinematografici in mezzo al deserto. Sì, ma poi era un film che comunque faceva un attimino l'occhiolino, sì. Esatto, l'occhiolino, questa teoria. Sì, sulla... sì, certo. Cioè, io non voglio fare il filo russo per forza, però mi piace fare il provocatorio. Bella questa, filo russo fa assonanza, sì. Ma sai che si dice anche, sì. c'è un'altra voce così, che in realtà Gagarin non fu il primo a andare nello spazio, ma addirittura quella missione fallì, quello che andò morì, ma al rientro misero lui per far sì che la cosa non... Sì, va bene, cioè ci sono tanti... Beh, pensa allora. Gagarin come si sia sentito, insomma, tipo mazza, da rimpiazzo me l'avete scelto proprio così. Senti, in verità io ti confesso una cosa, perché io sono Ho il titolo del film, Capricorn One. Capricorn One, dice. Bravo. Esatto. Sì. Comunque ti dicevo, ti confesso una cosa, che io sono del 24 e il primo ad andare nello spazio sono stato io. Poi, visto che i russi hanno scoperto nuove tecniche criogeniche, ti hanno congelato e non si sono accorti dei danni al cervello. Però questo è un altro discorso ancora. Io volevo tornare al tuo momento d'infanzia, che poi l'abbiamo abbandonato. Certo. Ecco, che ci riporta, insomma, alla passione per lo spazio. E poi lanciamo il prossimo. Sì, ecco, esatto. All'epoca non c'erano tutte le TV che c'erano adesso, non c'era internet. Quindi cos'era? Ero obbligato a guardarmi la televisione che c'era, quindi Rai 1 e forse Rai 2 e la Svizzera, non mi ricordo più. E quindi vedevo un sacco di questi documentari, di notizie che erano legate alle avventure spaziali, quindi da piccolino sono cresciuto con questo mito dell'astronauta. Adesso i ragazzini crescono con i miti di Amici piuttosto che di X Factor, piuttosto che di altre situazioni da reality, no? Lo sai che questa cosa la condivido con te? Anch'io nella mia infanzia, avendo vissuto da piccolo 3 anni in Tunisia, prendevamo solo Rai 1 e quindi per me i miei miti erano Torna a casa Alessi, Via col vento e Piero Angela. Ecco. L'importante è che non sia la Carrà. No, c'era anche la Carrà, sì, anche quella. Eh sì, cavolo. Però essendo tu di sesso maschile, mi insegni che è meglio Piero Angela che la Carrà. Beh, dipende, da piccola interessi un po' scientifici, magari sei un piccolo nerd, poi crescendo scatta l'ormone e anche la Carrà va bene, qualsiasi cosa. Basta che respira. Sì. Questa la tagliamo. Ma lascia tutto agli atti, vai. No, non si può tagliare, mi spiace. Vabbè, andiamo col prossimo pezzo, Il mondo visto dallo spazio, Delta Blu, sempre dalla selezione playlist di Roberto Ferrari. Grandi. Pace non c'è di sé. Allora, abbiamo ascoltato questo meraviglioso brano di Delta V. Vi ricordiamo che siamo su Radio Pazza con uno... Non Radio Puzza, mi raccomando, Radio Pazza. Con un ospite speciale oggi, abbiamo Roberto Ferrari, io sono il solito DJ Grex e qui a fianco a me c'è Bach. Allora, io volevo fare... Ma voi vi rendete conto di una cosa? Cioè, degli astronauti che in questo momento sono sulla base spaziale, a proposito del pezzo che abbiamo appena ascoltato... Anche loro potrebbero ascoltarci, insomma, se hanno internet, sì. Credo di sì. Non è impossibile. Ma tu sai, voi non sapete che sulla base spaziale, sulla stazione spaziale internazionale c'è una sorta di apparecchio radioamatoriale, no? Con il quale gli astronauti si collegano con i radioamatori sulla Terra. Capito? Ma in AM o cioè tipo quel tipo di baracchino, sì, insomma. Sì, tipo il CB, sì, esatto, tipo il CB. Mi sembra in VHF però, su una frequenza insomma alta. Quindi possono camuffarsi e spacciarsi per il camionista che sta sulla A1, per esatto. È una barra pesante, molto pesante la stazione spaziale. Sì. Brecco sul canale, tutto il canale Terra stoppato. Sì, no, però... secondo me è una cosa molto bella, cioè nel senso pensare. Guarda che i radioamatori sono tanti e per esempio sono una comunità molto forte, fanno dei raduni, insomma è gente che ha le palle. Noi per esempio vogliamo ricordare a tutti gli ascoltatori che c'è un blog roll sul nostro blog dove per esempio potete trovare Radio Passioni. Radio Passioni, adesso non ricordo, dovrebbe essere radiopassioni.blogspot.com e loro sono è un blog gratuito, insomma, senza nessuna chiave d'accesso e permette di informarsi e di stare aggiornati su tutto ciò che è radio, radiofrequenze, tecnologia soprattutto, ma anche convegni, leggi, eccetera, insomma. Poi chi lo scrive, insomma, è una persona molto disponibile, c'è il link anche per scrivergli una mail. Noi lo raccomandiamo a tutti quanti gli appassionati di radio. Perfetto, benissimo, quindi a posto. Beh ragazzi, io dico che io spero veramente di poter andare nello spazio e quando sarò nello spazio di potermi collegare con internet anche con voi, capito? In modo da poter fare una cosa, capito? Sarebbe bello. Ma tu hai promesso comunque di portarci con te, noi ti manderemo due foto. No, noi te le mandiamo sul serio, non è uno scherzo, te le mandiamo sul serio. Due foto. Le due vostre foto me le date. Certo, però mi devi promettere che non saranno mai pubblicate né viste, perché io ci tengo la mia privacy. Su internet non amo apparire, ecco. Te le diamo, no, ma le vedranno soltanto le vedranno soltanto gli extraterrestri, tranquillo, non ti preoccupare. Vabbè, quelli sono verdi. Vabbè, non si sa se sono verdi, boh. Non parlavo di politica, comunque. Ricordo gli extraterrestri, magari vediamo le fototessere, ecco, di amiche. Secondo me il vero extraterrestre è Berlusconi, secondo me è lui. Sì, è probabile. Sì. Che sulla Terra ci mi sta viene in mente la canzone che dice extraterrestre portami via. No, insomma, andare a casa di Berlusconi. Vabbè, facciamo una cosa, Roberto, auguriamo di realizzare il suo sogno, andare nello spazio, poi per il rapimento degli extraterrestri magari in una seconda battuta, una terza, insomma. Esatto, bravo, la bravo, bravo. Poi aspetta un'altra cosa, ieri sono andato al cinema a vedermi Alieni contro mostri, giuro, in tre dimensioni con gli occhialetti, uno spettacolo. Mi sono veramente quindi lo consigli? Sì, da morire, troppo bello, veramente. Scaricatelo. Scaricatelo. No, però sì, se lo scarichi non facciamo lo potrei... tutto gratis. Però no, a parte questo, però se non vai al cinema non lo vedi 3D, è fighissimo, sembra c'è una pallina che sì, ma io per andare al cinema devo ipotecare a casa dei miei genitori, quindi non so. Dici la capanna, la ipotechiamo a 10 euro e tiro fuori. Va bene, Roberto, noi siamo stati veramente contenti, anche te lo dico di cuore, tanto noi non ci si paga nessuno per fare questa cosa, siamo stati veramente contenti di averti qui come ospite, soprattutto perché insomma sei una persona anche disponibile e questo vuole essere una lode, punto. Io vi ringrazio molto, siete troppo gentili. Aspetta, ma lo sai io cosa sono puoi contento fare, dimmi. No, c'è il lato, dimmi, c'è anche il lato negativo? Sì, no, facciamo un gioco adesso, lui adesso tu intervista noi. Ah, ok, perfetto. Sì, esatto, perfetto. Vuoi sapere qualcosa di noi? Sì, esatto, no, vorrei sapere un paio di cosine. Allora, dove vorreste arrivare? Cioè, qual è il vostro scopo? Cioè, nel senso finale, se c'è uno scopo finale o se rimane così. È la domanda che mi fa mamma tutte le mattine. Che programmi hai oggi? Che è sottesa, insomma, è la stessa. La mamma che ti chiede, vabbè, fai il DJ. Ok, quello ok. D'altro canto io il tuo lavoro quale sarà? Esatto, poi però per guadagnare. Allora, a me piace rispondere che da grande voglio fare il papà. Ecco, infatti, questo... no, questa domanda me l'ha sempre fatta anche a me quando ero più giovane. Ok, il DJ, ma il lavoro serio qual è? Avvocato, rappresentante, insomma, così. Ma lo sai una cosa? Io per esempio ho 32 anni e sono arrivato al punto in cui ho dovuto cambiare il chip. Ho tolto quello da Peter Pan e ho messo quello da pseudo adulto, insomma. Poi con scarsi... E io non l'ho ancora tolto, sai? Però io con scarsi risultati, non credere. E a una domanda del genere oggi rispondo: guarda, non lo so, però oggi so che sto facendo questo. Mi occupo di una radio insieme a un carissimo amico e non lo facciamo per denaro e ci piace farlo. E soprattutto mi voglio rimettere a studiare. E questa è una cosa che raccomando a tutte le persone che non hanno ancora perso la speranza, perché studiare costa ancora poco relativamente nel nostro paese rispetto ad altri paesi. E quindi è ancora un'opportunità per tutti quanti. Fate magari un impegno con voi stessi. Prendete un impegno con voi stessi e rimettetevi in discussione, tornate tutti a studiare perché è utile. Certo, giusto, guarda, hai detto una cosa grande, infatti piuttosto che non fare niente uno dice fa qualcosa per divertirsi come fate voi, ma nel contempo studia anche, insomma. In Italia abbiamo delle ottime scuole senza andare all'estero. Ancora per un po' sì, poi vediamo, insomma. No, ci mancherebbe, certo. Senti, beh, io domande le ho finite, in pratica, erano solo due, anzi una sola te l'ho fatta alla fine. Vabbè, no, poi noi abbiamo risposto ognuno a modo suo, sai, noi siamo A-side e B-side, insomma, tanto per fare lo stesso disco incantato che è rotto. E quindi, niente, noi ti salutiamo, veramente. Io vi ringrazio, Roberto, tantissimo. Di essere stato con noi. La facciamo la battuta che abbiamo pensato prima? Che battuta? Allora, no, perché sì, vale. Se Radio DJ è sì, yes, Radio Pazza è vabbè. No. A voglia. Voglia. Non mi parlare di Yes. No, anche perché questo non è lavoro, questo è assolutamente solo ed esclusivamente divertimento. Quello che no, devo chiudere, perdonatemi. No, ti saluto. No, aspetta, molto ottimo. Ah, pensavo dove andare, vai, dimmi. No, un attimo, devo dire una cosa, perché la campagna Yes di Radio DJ, non so se avete notato. Sì. Ma io sono il DJ invisibile. Cioè, non ci sei? No. Hai rifiutato, non... oppure vi faccio, no, aspettate, vi faccio una domanda. Secondo voi, perché non sono all'interno della campagna Yes di Radio DJ? Perché sei sfigato. Allora, questa è una domanda che rimarrà senza risposta. Basta, era perché volevo. Guarda, noi lo spazio per fare la tua polemica te lo lasciamo se vuoi, tanto non ce ne frega niente. No. Nel senso, non che non ci importa, ma tranquillo. È una cosa che ci vorrebbe un'altra ora. Vabbè, non c'è problema. Grande Roberto Ferrari, grazie per essere stato con noi. Noi ti lasciamo all'ascolto del quinto pezzo che hai scelto per farci ascoltare. Questi sono tutti esatto, cinque, sì, secondo noi. Sì, concordo. Ma anche secondo me. Vabbè, ma non è che pretendevamo nulla, è stata una playlist leggera, insomma ascoltabile, però questo è veramente un pezzo miliare. Dire Straits con Your Latest Trick. Have the city to themselves. echoes and roars, dinosaur. They all doing a monster mash. And most of the taxis, most of the whore are only taking calls for cash. I don't know how it happened. It all took place so quick. But all I can do is hand it to you and your latest trick. Well, now my door was standing open. Security were laid back and laughed. It was only my heart that got it broken. You must have had a pass key made out of wax. You played robbery with insolence, and I played the blues in 12 bars down on Lover's Lane. And you never did have the intelligence to use the 12 keys hanging off of my chain. I don't know how it happened. It all took place so quick. But all I can do is hand it to you and your latest trick. Last call for alcohol. Fast recall has been here and gone. The landlord, he finally paid us off. The satin chads may have put away their horns. And we're standing outside of this wonderland, looking so bereaved and so bereft. Like a Bowery bomb when he finally understands the bottle's empty and there's nothing left. I don't know how it happened. It was faster than the eye could flick. But all I can do is hand it to you and your latest trick. Ciao ragazzi. Ciao. Ciao Roberto. È stato un grande piacere veramente. Sì. Io ora vi lascio Ferrari at DJ, DJ scritto per esteso. Sì, DJ.it, tanto lo troviamo anche sul sito di Radio DJ, giusto? Comunque bravissimo. Ferrari at, poi è semplice. Tutti voi DJ lì lo avete in questo modo, mi sembra, in questo formato. Bravissimo, bravo, okay. Bravo. Ti mando il pezzo di Lady Gaga, che è carino. Sì. E poi certo. Niente, magari così trovi anche la mail nostra, radiopazia@gmail.com. Esatto. quando poi lo avete online me lo dite, che te lo faccio sapere, radio. Certo. E come no, ci oh, grazie Roberto, noi rimaniamo in contatto, tanto lo Skype nostro ce l'hai, noi abbiamo il tuo, poi per qualsiasi cosa se hai bisogno ce lo fai sapere. E comunque Roberto, se vuoi richiamare un'altra volta per un altro collegamento e spiegare la tua polemica sarebbe anche molto interessante secondo me. Eh sì, anche, non sarebbe male, dedichiamo una puntata intera per entrare all'interno di una radio vera, questo non sarebbe male. Sì, dovrei fare, come si dice, l'angolo tutta la verità. Oh, ciao Roberto, un abbraccione grande. Un abbraccio grosso. Ok, goditi questa estate, passala bene. Anche a voi, grazie tante. Ciao, e ti facciamo in bocca al lupo. Non so se partecipiamo all'asta, però comunque no, facciamo il tifo per te, quello sicuramente. Grazie mille. A presto. Ciao.